Se ti dovessi raccontare le sensazioni e le voci che ho raccolto in questi ormai 10 giorni passati a Londra e oggi a Southampton, ti devo dire che la gente è fondamentalmente molto stufa, è stufa di Brexit e anche gli italiani, che sono tantissimi, che vengono a studiare o a lavorare soprattutto a Londra, e quando si parla di Brexit, mentre non hanno le idee chiare su cosa succederà, hanno le idee chiarissime sul fatto che sono veramente annoiati da Brexit. C'è un clima di disaffezione generale nei confronti, insomma, dell'attività di Westminster, perché, come insomma gli ascoltatori di Radio Fujiko ormai avranno capito, Theresa May non gode, insomma, di grande fiducia, il suo piano barcolla, per cui si va avanti da settimane nell'incertezza generale. In più, come ha dimostrato la grande manifestazione di sabato scorso, sono sempre di più le persone che spingono per restare in Europa, per revocare l'articolo 50 e quindi per cambiare un po' le carte in tavola rispetto al referendum del 2016. In questo senso ti chiederei proprio anche qualche aggiornamento rispetto anche, diciamo, alla petizione che è stata lanciata online, che ha già raggiunto più di 5 milioni di firme, anche come ci si sente rispetto a quella, se se ne sta parlando. Di sicuro sì, se ne sta parlando, anche e soprattutto sui social network, del resto stiamo parlando di una petizione online. Sono più di 5 milioni, come dicevi tu, le firme raggiunte già domenica scorsa. Le persone che sono state radunate in piazza nella manifestazione erano fisicamente presenti in forma di 1 milione di persone. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che già a ottobre c'era stata una manifestazione simile, ma aveva radunato solo 670.000 persone. Oggi sono aumentate, in piazza ce n'erano 1 milione, quindi al di là delle petizioni, che è molto più semplice e agevole firmare senza un coinvolgimento diretto, tantissime persone sono scese in piazza e sono arrivate non solo da Londra, che è tradizionalmente una città globale che accoglie tantissimi immigrati da tutta l'Unione Europea, sono arrivati anche da piccoli paesini. Io ho parlato per esempio con ragazzini giovanissimi o signori anziani che venivano dalla Cornovaglia, da Bristol, quindi davvero da tutto il Regno Unito, e si respirava un grandissimo entusiasmo. Devo dirti che in Italia io non avevo mai visto una manifestazione, uno slancio europeisti così forti, e non solo per la quantità delle persone, ma anche per la creatività, per il dettaglio dei cartelli, insomma, che venivano portati in piazza, e c'era anche molto malumore da parte dei ragazzi iscritti al partito laburista verso, insomma, un partito che ondeggia su questi temi. Poi, se vuoi, parliamo anche, insomma, degli andamenti, delle preferenze, se ci fosse un eventuale ulteriore referendum. E infatti proprio questo ti volevo chiedere, quindi, se ci sono dei sondaggi, delle ricerche in questo senso, su quali potrebbero essere gli esiti e anche su quanto si è effettivamente voluto. Allora, ci sono dei dati che sono davvero, secondo me, molto interessanti. E uno è un sondaggio che è uscito proprio questo martedì, che è promosso da NatCen, che è sostanzialmente un centro nazionale per la ricerca sociale. I ricercatori sono andati a vedere cosa succede se andassero oggi a votare a un secondo referendum tutti coloro che invece nel primo si sono astenuti, e non sono pochi, perché comunque ben il 30% dei britannici non è andato a votare. Bene, più del 50% voterebbe per il Remain, mentre dell'altra metà risicata solo circa il 20% sceglierebbe il Leave e altri continuerebbero ad astenersi. E questo lo possiamo associare anche a un altro sondaggio interessante che è stato fatto da YouGov assieme all'Università di Cambridge, che dice che da parte dei sostenitori del Leave, quindi di quelli che vorrebbero lasciare l'Unione Europea, c'è una crescente sfiducia sul fatto che l'impatto di Brexit sarebbe effettivamente positivo. Qualche esempio: i Leaver sostenevano che lasciare l'Unione Europea avrebbe comportato benefici per il mondo del lavoro, avrebbe impedito l'immigrazione. Bene, tutte queste convinzioni mano a mano vacillano, mentre invece aumenta la sfiducia sia dei Leaver che dei Remainers per ciò che stanno facendo i politici. In entrambi gli schieramenti circa l'80% delle persone è sostanzialmente disaffezionato e non crede più ai politici di Westminster. Probabilmente c'è un'influenza anche, diciamo, di quello che è stato il dibattito politico, penso alle ultime settimane con anche Theresa May che attaccava abbastanza direttamente i parlamentari, per esempio. Come è stata percepita anche questo tipo di dibattito? Ti dico solo questo, forse basta per rendere l'idea, almeno a noi italiani. Un paio di giorni fa sono andata nella prestigiosissima London School of Economics per sentire come veniva vissuto Brexit da parte dei professori e degli studenti di un'università come quella, che è come loro stessi dicono, un'università globale. Bene, c'era questo professore che si chiama Charlie Beckett che mi ha fatto questo esempio, secondo me molto calzante. Mi diceva: guarda, noi per anni e anni abbiamo preso in giro gli italiani per la storia di Berlusconi. Se adesso dovessi vedere da fuori quello che sta succedendo con Theresa May, mi troverei in enorme imbarazzo, perché alla fine la pessima figura la stiamo facendo noi. Quindi sì, diciamo che la gente non crede più che i parlamentari riusciranno a portare avanti una buona Brexit, e anche i leavers pensano che, insomma, le cose stiano andando male, quindi nessuno si riconosce nel modo in cui la partita Brexit viene effettivamente gestita in Parlamento. L'ultima cosa che ti vorrei chiedere è invece se, secondo te, per le ricerche anche che stai facendo, le interviste, qual è l'opinione rispetto all'opzione che sembra sempre un po' più probabile di una Brexit con un no deal, fondamentalmente, che è quella che poi sembra che tutti i leaders europei, May compresi, vogliono evitare? Guarda, io ho questa percezione che in realtà sia il no deal sia il secondo referendum siano opzioni un po' difficili, che entrambi i gruppi usano un po' come strumenti di pressione. Ti faccio un esempio. Riguardo al secondo referendum, Jeremy Corbyn ha sempre avuto un approccio un po' titubante. Ci sono i piccoli partiti legati al mondo di sinistra, per esempio ci sono i Verdi, oppure ci sono i nazionalisti scozzesi, che invece spingono perché venga chiesto un nuovo referendum. Nell'altro schieramento, invece, c'è un conservatore per eccellenza, uno dei membri del cosiddetto European Research Group, sono sostanzialmente i brexitari più convinti, e si chiama Jacob Rees-Mogg, e lui dice: piuttosto che avere un secondo referendum, io sostengo la bozza di Theresa May. Quindi da una parte ci sono quelli che se ne vorrebbero andare dall'Unione Europea, che pur di evitare un secondo referendum appoggerebbero delle bozze che sono un po' una via di mezzo. Dall'altra parte ci sono i Remainers, che usano come grimaldello, come strumento di pressione, il referendum. Ma poi bisogna vedere, se mai questa idea passasse, che tipo di referendum sarebbe. Non è detto che una delle opzioni sia necessariamente quella del Remain. Si potrebbe anche scegliere tra un no deal e una softer Brexit, per dire. Quindi secondo me in realtà il no deal è difficile, così come però è difficile anche che ci sia un secondo referendum. Verosimilmente escogiteranno qualche nuova soluzione.